Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Emanuela Piovano di Kitchen Film, che distribuisce il film Arthur Rimbaud, il blogger maledetto di Laurent Cantet, al cinema da giovedì 28 aprile 2022. Ben trovata. Buongiorno a voi, ben trovati a voi, grazie. Descriviamolo. Arthur Rimbaud, che è un gioco di parole tra appunto il supereroe Rimbaud e il famoso poeta maledetto francese Arthur Rimbaud. In sottotitolo quindi italiano, il blogger maledetto, perché qua parliamo di un poeta contemporaneo che è appunto un blogger. Il film è ispirato a una storia vera del francese Mehdi Mekrat, che è stato uno scrittore molto acclamato, giovanissimo, intelligentissimo, amato dalla critica, da tutti, che sembrava per un attimo mettere anche d'accordo, no, il tema dell'inclusione delle culture non autoctone, diciamo, francesi, e che invece poi è scoppiato in un caso nazionale perché improvvisamente si è scoperto che era un blog razzista, omofobo, sessista, dove insomma ne diceva di tutti i colori. Lo scrittore nella finzione si chiama Karim e il suo alias, con cui appunto proprio un alias tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, cioè esattamente l'opposto del bravo ragazzo acclamato dalla critica, è appunto il nome, l'alias di Arthur Rimbaud. E quindi scoppia questo caso nazionale dove in modo molto molto intelligente e molto bello, molto drammatico, drammaturgicamente parlando perfetto, Laurent Cantet sintetizza questo evento in 3 giorni e 2 notti, quindi convulse, in cui lui sta per uscire questo libro ispirato tra l'altro alla storia della propria madre, quindi della prima immigrazione araba in Francia, eccetera, acclamatissimo, 1000 copie, ristampe, tutto il mondo lo vuole. Nella stessa notte si scopre che lui con questo pseudonimo ha questo altro blog, quindi la casa editrice sospende le vendite, succede veramente un casino con l'ufficio stampa, con i suoi amici, perché lui tiene anche una piccola televisione, un canale televisivo della banlieue molto seguito, ma i suoi compagni anche lo ripudiano perché dicono: noi ci abbiamo messo tanti anni a farci accettare, loro ovviamente ci accetta il pubblico, hanno 200.000 follower grazie alla faccia che ci mette Karim, e adesso improvvisamente Karim si scopre che è Arthur Rimbaud e nessuno lo vuole più. Quindi questo ragazzo giovane, interpretato da questo stupendo attore, che era già il giovanissimo attore della classe, il film Palma d'Oro di Laurent Cantet, che era Entre les murs, tradotto in italiano La classe, e c'era questo adolescente di 13 anni che adesso appunto ne ha 28 più o meno, insomma, e che è veramente stupendo e che interpreta questo scrittore, insomma, in crisi. Storia quindi molto contemporanea e molto molto giovane, perché appunto come i social in un attimo ti possono elevare ma anche distruggere in un solo momento, il nuovo circo dei leoni, insomma. Infatti mi sembrano centrali 2 elementi. Uno, il peso dello strumento social, e il secondo, l'importanza delle parole. Esatto, infatti, bravo. Tra l'altro è un film veramente dove la parola, che è veramente intrecciata, perché poi Cantet fa un lavoro fantastico anche di questi continui tweet di sovraimpressione, poi però anche nei telefonini, poi però anche nel pensiero, poi però anche nella voce fuori campo. Io tra l'altro sono stata a Napoli, avevo visto altri 2 film, tra cui tra l'altro il primissimo che lui aveva girato nella sua carriera, perché Napoli appunto ha dedicato una piccola rassegna a Cantet. Ho scoperto con il suo filo conduttore questo delle parole. Per esempio, il suo primo film era molto interessante perché era un esperimento di ragazzi che andavano da una specie di corso di scrittura creativa, no? E dovevano scrivere un romanzo tutti insieme, e all'inizio dice accidenti, ma poi ti prendeva perché le parole poi diventavano veramente delle azioni. E anche in questo film, un film straordinariamente mosso, pieno di azione, c'è questo ragazzo che corre come se sfuggisse a questo suo agone dove viene proiettato improvvisamente, queste parole che lo inseguono e che lo mettono in delle situazioni molto molto conflittuali, e poi naturalmente questo totale travisamento della verità. Lui stesso non capisce più qual è la verità, perché è veramente identificato in tutte e due queste personalità. E tra l'altro scopre anche, per esempio, che il fratellino più piccolo, che lo vede come un mito e che lo adora e che ha tutti i suoi amici della banlieue dove vivono, lo seguiva proprio per Arthur Rimbaud e non per Karen B, per esempio. E scopre tra l'altro che quello che diceva Arthur Rimbaud era forse addirittura più seguito, che per lui era un gioco, uno scherzo, una butade. Era seguire anche un istinto, no? Perché infatti, come si dice anche nel film, un tweet, un respiro, la nostra generazione vuole sempre essere nella corsa, in prima linea, e tweet lo permette, no? C'è quasi un flusso, ecco, che gli sfugge di mano, e però poi lo imprigiona, insomma. Eh sì, perché poi quando a livello di massa si fa uso della retorica per intendere l'opposto, molti si fermano al significato che hai dato alla frase o alla parola, senza intendere la sottigliezza. Esatto, proprio così. Ma poi addirittura qua viene proprio fuori questo meccanismo in prima persona, perché non è solo il meccanismo di chi si mette da parte e dice ah guarda come tutti i fenomeni a cui stiamo assistendo, dai Novax all'interpretazione così discordante su quello che sta accadendo in Ucraina, no? Come se questa è dalla parte della ragione e dice ma gli altri come fanno a dire quello, come fanno a non capire? Ognuno è nel suo piccolo mondo lessicale, no? E invece qua la cosa bella di questo film è che è lui stesso che non sa più tradursi tra se stesso e l'altro, e fa quasi che ci fosse proprio un cortocircuito del senso dovuto proprio a questa proliferazione dell'interpretazione, no? È quasi un esperimento questo film, perché ti fa capire in che mondo siamo, dove veramente facciamo fatica a capire noi stessi da che parte stiamo ogni volta, perché possiamo permetterci di cambiare casacca in continuazione, senza neanche accorgercene, passando da un estremo proprio all'altro. In quante sale? Sono un po' ballerina in questo momento, perché c'è ancora sempre un po' di caos, non c'è una vera riorganizzazione, e quindi siamo sempre un po' lì che aspettiamo a chi apre il paracadute per ultimo. Comunque saranno sicuramente più di 20 sale, perché il film sta comunque piacendo molto. Io avevo anche dei dubbi quando l'ho preso, con grande rispetto per questo autore che stimo e ammiro moltissimo, e invece l'ho scoperto proprio che è una storia che prende moltissimo. Guarda che l'abbiamo doppiato benissimo da Marco Casanova, ha fatto un lavoro enorme di doppiaggio, è la prima volta che il doppiatore fa i cartelli, per esempio, grafici. Era importante dare una continuità assoluta tra i cartelli, le voci fuori campo, le cose lette per farle tradurle, e quindi vedrete poi sul sito della Kitchen Film. Comunque ecco, il film sta piacendo molto e viene vissuto come un film anche molto importante, perché è un film che ha una sua struttura anche molto classica, ecco, che ti cattura moltissimo. Il film Arthur Rimbaud, il blogger maledetto, di Laurent Cantet, al cinema da giovedì 28 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento a Emanuela Piovano di Kitchen Film, che lo distribuisce. A presto! Grazie mille, e poi dal 28 maggio si scende kit, comunque, per chi vive in campagna e non raggiunge i centri urbani. Con Francesco Montagnier, regista del film Brotherhood, al cinema da giovedì 21 aprile 2022, ben trovato. Ciao Federico, grazie per l'invito. Ce lo racconti? È un documentario su tre fratelli bosniaci che affrontano una condizione molto particolare, essere figli di un padre che è un pastore, ma è anche un predicatore islamico, salafista, che per il suo coinvolgimento negli eventi della Siria, eventi collegati anche con il terrorismo internazionale, è costretto ad andare in prigione per 2 anni. I tre fratelli rimangono spiazzati da questo evento, perché come adolescenti come semplici pastori della Bosnia, non riescono interamente a comprendere le ragioni del padre e si trovano ad affrontare due anni importanti nella vita di un adolescente senza la figura paterna, dovendo quindi affrontare il duro lavoro del pastore. Ed è un film anche molto legato al tema non solo dell'adolescenza, ma al tema dell'identità, di che tipo di uomo vogliono diventare i tre fratelli, i tre ragazzi. Come sei venuta a conoscenza di questa vicenda e come hai deciso di raccontarla? Nel 2015 ho visto un servizio italiano, un reportage di servizio pubblico di Pablo Trincia, e ho visto la famiglia in questo reportage che stava seguendo una storia di radicalismo italiano-bosniaco nella zona del Triveneto, se non ricordo male, e mi colpì moltissimo la famiglia. Non capivo, perché conoscendo, avendo anche studiato a scuola negli anni 90 con ragazzi bosniaci, non capivo, non erano esattamente gli stessi bosniaci che conoscevo, che quindi sì, musulmani però molto secolarizzati, e le facce, le loro vite soprattutto mi hanno colpito molto. Era una realtà che non conoscevo, mi sono domandato che cosa significa essere figlio di una persona di quel tipo, di essere un figlio di un jihadista, e cosa significa crescere soprattutto senza un padre. Tutte queste domande mi hanno portato nel 2016 a incominciare il progetto Brotherhood, andare in Bosnia e a conoscere i ragazzi. Poi abbiamo costruito un rapporto molto, molto intimo, molto solido, che dura fino ad adesso, e è stata una bella esperienza. Come hai deciso di procedere nella narrazione? Li hai seguiti nel quotidiano? Entravo con la camera e con la troupe nelle loro vite ogni 3 o 4 mesi, però seguivo sempre il susseguirsi degli eventi della loro vita. Tutte le riprese di Brotherhood coprono un arco narrativo, un arco temporale di 4 anni, il che è stato un lavoro molto, molto complesso e molto, molto duro, che però ci ha permesso con pazienza di essere presenti nei momenti cruciali della loro vita, nei momenti che possono essere anche banali da un certo punto di vista, se visti con l'ottica di un adulto, però per un adolescente anche dei minimi cambiamenti nella propria vita possono significare tanto. E poi passavamo molto tempo assieme nelle settimane, negli 80 giorni in totale che abbiamo passato assieme con i ragazzi. Che impressioni ne hai ricavato? Beh, è stata un'esperienza di vita molto, molto importante, perché la cosa bella del documentario, che spero che possa riflettere nel pubblico stesso, è l'incontro con l'altro, l'incontro con una realtà molto diversa dalla nostra, sicuramente molto diversa dal mondo in cui sono cresciuto io come adolescente, e mi ha arricchito molto nel bene e nel male. Nel senso che è sempre complesso relazionarsi con l'altro, non solo con un popolo straniero, ma con una persona che ha dei traumi, come anche il padre stesso dei ragazzi, perché era un veterano della guerra, e vivere quasi in un posto dove la guerra rimane, permane anche nel territorio stesso con le mine, ti segna. Però mi ha segnato anche molto l'apertura, la generosità che questi tre ragazzi, che è Jabir, Usama e Usair, la loro volontà di concedersi a me, di concedersi alla telecamera e di presentare al grande pubblico la loro vita, no? I momenti più intimi proprio della loro vita. Tutti questi eventi mi hanno segnato molto, perché 4 anni di riprese e in totale 5 anni di progetto ovviamente marcano un percorso importante nella vita dei ragazzi, ma anche nella mia come regista. Che forma distributiva hai pensato e in quante sale sarà? Con la produzione Nefertiti e con la produttrice Nadia Trevisan abbiamo pensato che la cosa migliore era distribuire il film in un modo indipendente, quindi sala per sala, e di avere un contatto diretto con il pubblico per rispondere alle domande, perché il documentario e il cinema del reale ha il grande vantaggio di invogliare il pubblico a fare molte domande. Quindi abbiamo cercato di fare tutte le sale italiane possibili, quindi avere un mese e mezzo di distribuzione nelle sale d'esse principalmente, e spesso accompagnando anche il dibattito con degli esperti della storia contemporanea dei Balcani, che possono anche illustrare in che contesto si inserisce il film, in modo da poter anche parlare di conflitti che sono tutt'oggi sfortunatamente molto attuali. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? C'è la pagina Facebook di Brotherhood, che la curo anch'io, e poi sul sito della pagina anche Instagram, se di Facebook, di Nefertiti, ci sono tutti quanti i dettagli per la distribuzione. Il film Brotherhood al cinema da giovedì 21 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Francesco Montagnier. A presto! Grazie di avermi avuto in online trasmissione. Thank you. Beatrice Baldacci, regista del film La Tana, al cinema da giovedì 28 aprile 2022. Ben trovata. Ciao, ciao a tutti. Che storia hai raccontato? La Tana è la storia di Giulio, che è un ragazzo adolescente che vive in campagna con i suoi genitori e che improvvisamente un giorno scopre che è arrivato qualcuno nel casale che sembrava abbandonato di fronte a casa sua. E questo qualcuno è Lia, che è una ragazza molto misteriosa, molto scontrosa, e soprattutto inizia con lui a fare dei giochi un po' strani, un po' pericolosi. E da lì nascerà questa storia d'amore che poi nel corso del film andrà a intrecciarsi con un'altra storia d'amore, che è quella tra Lia e sua madre, che nasconde in questa casa semiabbandonata. Com'è nato tutto? L'idea del film era nata dopo che avevo concluso il mio precedente cortometraggio, che era Supereroe senza superpoteri, in cui affrontavo comunque la stessa tematica però in maniera molto autobiografica, perché raccontavo in prima persona la mia esperienza con la malattia di mia madre, e da lì avevo bisogno di esplorare questo tema e queste emozioni in maniera sia più approfondita ma anche da un altro punto di vista, che non mi costringesse a parlare direttamente di me. E quindi ho deciso di scrivere La Tana, affidando appunto il racconto di queste emozioni abbastanza complicate a due personaggi di finzione. E da lì poi Andrea Gori di Lumen Film mi ha contattato, perché aveva questa idea di partecipare a Biennale College, e quindi poi ha letto il film, gli è piaciuto e abbiamo iniziato questa avventura. Dopo il cortometraggio, per la scrittura di questo, come hai lavorato? Questo film l'ho scritto insieme ad Edoardo Puma, partendo un po', come dicevo, da questi sentimenti che sento molto familiari. Volevo comunque ambientare il film in campagna, e la scintilla proprio che mi ha fatto scattare l'idea è che quando io ero molto piccola andavo in campagna da mia nonna, e di fronte a questa casa, che era una casa abbastanza isolata, c'era sempre questa casa un po' misteriosa, sembrava che nessuno l'abitasse. E quindi da lì mi è nata un po' questa idea, che ho raccontato a Edoardo, e ci siamo subito trovati, perché poi è successa una cosa divertente, cioè che io mi identificavo molto nel personaggio di Lia e lui molto nel personaggio di Giulio, tanto è vero che a volte tipo durante i workshop sbagliavano nomi e ci chiamavano proprio Giulio e Lia. E quindi ci abbiamo ragionato molto sulla struttura del film, abbiamo deciso di non scegliere una struttura canonica, soprattutto per quanto riguarda i punti di vista del film. Abbiamo deciso di raccontare Lia, il suo dolore, la sua interiorità, inizialmente attraverso gli occhi di Giulio, per cercare di avvicinarci lentamente, di svelare questo dolore in modo graduale, un po' come loro stessi scoprono le loro emozioni. Che tipo di uscita sarà? Per adesso saremo nelle grandi città e poi vediamo come va. E ovviamente per un film piccolo come il nostro uscire nelle sale adesso è proprio un rischio enorme, ma sia Lumen Film che PFA, che lo distribuisce, ci hanno creduto, e quindi iniziamo questa nuova avventura sperando di avere un buon riscontro. Ecco. Per saperne di più anche rispetto alle sale, ci dai dei riferimenti web? Si possono trovare sulla pagina Instagram del film, che è La Tana Film, e sul sito PFA Distribuzioni e Lumen Films. Il film La Tana al cinema da giovedì 28 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento alla regista Beatrice Baldacci. A presto! Grazie, ciao! Con Chiara Ronchini, regista del documentario Giovanna, Storie di una voce, un tour da mercoledì 20 aprile 2022, ben trovata. Grazie, grazie a tutte e tutti. Raccontiamo chi è questa Giovanna. Giovanna è Giovanna Marini, e il documentario racconta un po', usando a pretesto un excursus della carriera di Giovanna, un po' come è cambiato il nostro paese mentre lei componeva la sua musica, quindi un po' vediamo dai cambiamenti degli anni 60, arriviamo più o meno fino ai giorni nostri, usando appunto come scusa raccontare la carriera di Giovanna Marini. Com'era nato tutto? Il progetto è nato da un incontro con Giovanna tramite un'amica comune e dopo, insomma, l'ho sentita, le ho fatto un'intervista per un altro motivo, l'ho sentita parlare, raccontare e ho pensato che avrei potuto ascoltarla veramente per giorni parlare, quindi le ho proposto di fare questo documentario insieme e lei mi ha detto che sì, che le sarebbe piaciuto, però le interessava dare un'immagine un po' più completa di quello che era il suo lavoro, quindi non soltanto il richiamo alla musica popolare, alla ricerca della musica popolare o all'impegno all'interno del Partito Comunista, ma un po' allargare la visione che soprattutto in Italia si ha di lei. E quindi, insomma, ho cominciato a fare questo percorso un po' di conoscenza di Giovanna, che è un po' il percorso che rappresenta un po' il film stesso è, diciamo, un percorso attraverso il lavoro di Giovanna che va sempre più a scavare nel profondo il suo modo di fare musica. Come l'hai strutturato? Il documentario è, io lo chiamo, diciamo, una ballata per archivio, è un incastro, una tela che mette insieme una serie di lunghe interviste a Giovanna su uno sfondo nero astratto e la faccio dialogare attraverso le sue parole, ma anche alcuni dei brani più famosi della sua discografia, insieme a delle immagini di archivio, sia del tempo che di archivio contemporaneo, quindi immagini che abbiamo girato ad hoc sui paesaggi di oggi che erano stati i paesaggi del lavoro di Giovanna Marini. Un po' per raccontare questa storia, quali sono gli echi di quella che sta la sua storia, che è la sua storia tuttora nel paesaggio di oggi. Un po' appunto il racconto di come è cambiato uno spazio, un modo di incontrarsi, un modo di vivere la musica e la voce. Quindi è anche un modo diverso di vivere la storia, sicuramente. Nell'intervista quali punti avete toccato? Ma abbiamo iniziato un po' col racconto ovviamente delle note biografiche e poi abbiamo lavorato molto sul modo di Giovanna di fare musica, di utilizzare soprattutto la voce, per questo il documentario si chiama Storie di una voce, perché appunto la voce di Giovanna è stata utilizzata in tantissimi modi, lei l'ha utilizzata in tantissimi modi, ha fatto ricerca sulla voce, eccetera, eccetera. Però il discorso che lei fa sulla musica, sulla ricerca della musica popolare, eccetera, in realtà può essere una metafora di un atteggiamento che si dovrebbe avere sulla vita, un modo di vedere la storia, il paese, i movimenti del nostro paese in maniera complessa, assolutamente non semplicistica. Che impressioni ne hai ricavato? Io posso dire soltanto che per me lavorare con Giovanna Marini è stato veramente un grandissimo privilegio. È stato come appunto lavorare accanto a una persona geniale, ma allo stesso tempo davvero molto generosa. Devo dire che mi ha insegnato molto, ma mi ha insegnato quello che lei dice, che predica veramente con i suoi studenti da tanti anni, che è l'ascolto, no? Quindi l'ascolto è un'impressione, andare a oltre, non avere paura di complicare l'analisi. Quindi questo secondo me quello che un po' è il messaggio. E poi l'incontro con le persone, un documentario dove anche soprattutto nella studio scorrono tantissimi corpi, tantissimi volti, è proprio sta in gioco, come dire, della vita, del corpo in tantissimi sensi. Che forma distributiva avete scelto? Il documentario esce in sala, insomma, in questi giorni, è stato prima presentato in anteprima a dicembre al Festival di Torino, poi a gennaio al Festival di Trieste. E adesso comincia proprio appunto in questi giorni un po' un percorso nelle sale cinematografiche. Abbiamo fatto Roma, adesso faremo Genova, Torino, Milano, poi faremo Bologna, Udine, Perugia, Napoli, Perugia, siamo stati anche a Fermo. Quindi diciamo un po' è una sale che speriamo, insomma, aumenti nel tempo, anche insomma con l'aiuto un po' del passaparola. E poi insomma vediamo una cosa che accade nel televisivo, però per il momento abbiamo la sala che è veramente una bellissima occasione per incontrare il lavoro di Giovanna Marini. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? C'è una pagina Facebook che è Giovanna di una voce, appunto, e la produzione del documentario è Luce Cinecittà, quindi anche sui siti di Luce Cinecittà si possono trovare un po' di riferimenti. E poi appunto gli appuntamenti in sala, sicuramente sempre dalla pagina Facebook Giovanna Storia di una voce. Noi insomma aggiorniamo man mano che escono fuori appuntamenti, richiami e la pagina. Il documentario Giovanna, Storie di una voce, in tour da mercoledì 20 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento alla regista Chiara Ronchini. A presto! A presto, grazie.

Sabrina Baracetti, direttrice artistica della 24esima edizione del Far East Film Festival ad Udine dal 22 al 30 aprile 2022. Ben trovata. Ben trovati a voi, siamo molto in fibrillazione chiaramente perché il festival finalmente recupera quella che è la sua dimensione storica, sia a livello di proposta, proprio come evento dal vivo all'interno di un teatro che diventa il cuore proprio della manifestazione, che è il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che ha 1200 posti, un grandissimo schermo, un impianto importante anche dal punto di vista proprio tecnico, che dicevo ritorna alla sua dimensione storica dal punto di vista degli ospiti, perché la formula del Far East Film Festival è sempre stata quella di coniugare i film asiatici di maggiore successo, i film popolari che comunque dall'altra parte del mondo sono visti da migliaia di persone, di spettatori nelle sale, proprio alla possibilità anche di incontrare i beniamini di queste cinematografie che, come sappiamo, sono molto diverse tra di loro, ma che noi in questo momento raggruppiamo appunto con il termine di cinema dell'Estremo Oriente, che sono 10 cinematografie diverse che noi che vengono rappresentate all'interno di questa selezione che ha complessivamente 72 titoli, comprendendo appunto dei focus speciali, come ad esempio il focus con 6 film dedicati ad una città, una megalopoli veramente molto affascinante ma anche molto conturbante e inquietante come Manila. E abbiamo deciso appunto di così dare spazio a questa fascinazione occidentale verso queste realtà che noi non abbiamo qui, che sono appunto le grandissime metropoli asiatiche che hanno un ruolo importante anche a livello cinematografico, perché infatti il cinema che noi mostriamo spesso è un cinema urbano che si svolge all'interno appunto della vita frenetica di queste città. E dicevo anche altre sezioni importanti all'interno di questa edizione appunto di Far East Film numero 24, che sono un occhio particolare ad esempio ai restauri. Cioè, nel senso, abbiamo sempre cercato nella storia del festival di raccontare e mostrare quelli che sono alcuni capolavori, delle gemme del passato del cinema asiatico, e lo abbiamo fatto puntando soprattutto alla qualità della proiezione, la qualità proprio del film che viene recuperato, quindi puntando su quelli che sono i nuovi restauri, partendo dalle nuove digitalizzazioni, ma proprio sul restauro di alcuni capolavori. Per cui sarà molto divertente ad esempio vedere il primo film di Johnny To, che si chiama The Heroic Trio, e il trio è formato da 3 donne fantastiche che appunto erano Michelle Yeoh, Maggie Cheung e Anita Mui, per cui sarà divertentissimo vederlo con una qualità alla quale prima era possibile accedere proprio. E solo per fare alcuni esempi di alcune sezioni che si aggiungono a quella che è la selezione principale. Ci sarà anche una versione online del festival? Sì, certo, perché questo è tutto ciò che di buono ha portato questa situazione, insomma, che abbiamo vissuto tutti e che ha penalizzato fortemente l'accesso nelle sale cinematografiche e anche la realizzazione di eventi importanti, appunto, come appunto i festival cinematografici. Dicevo, è importante che abbiamo deciso, per una scelta proprio editoriale, che il festival avesse una finestra sull'online, una sezione online che abbiamo sviluppato ovviamente con MyMovies.it e che rimarrà costante nel futuro. Cioè, noi vogliamo assolutamente che rimanga costante nel futuro, poi chiaramente chiediamo la collaborazione di quelli che sono le compagnie di vendita asiatiche che ci danno il permesso poi appunto di presentare sulla rete i loro prodotti. Non tutti sono disponibili a farlo, però noi ci impegniamo affinché appunto una sezione del festival rimanga appunto, come dicevo prima, sempre accanto a quella che è la formula invece, insomma, storica del recarsi in un cinema, che è appunto il teatro, per vedere appunto i film sul grande schermo. Ci dai tutti i riferimenti web per le informazioni? www.fareastfilm.com, dove si possono prenotare tutti i biglietti, acquistare tutti i biglietti, ed è molto facile anche acquistare l'accredito che permette appunto di vedere tutti i film del festival. Gli orari quali saranno? Noi partiamo alle 9 del mattino, anzi il capolavoro filippino che si chiama Manila by Night, che dura appunto 3 ore, inizia alle 8:30 del mattino. La 24esima edizione del Far East Film Festival al Teatro Nuovo Giovanni da Udine dal 22 al 30 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Sabrina Baracetti. A presto! Ciao! Thank you.

il proprio genere sul passaporto e che sono state respinte alla frontiera ucraina perché considerate uomini e quindi devono andare a combattere. Una persona che ha sempre avuto in mano un rimmel le chiedono di mettersi un fucile per andare a combattere. Lei è riuscita a fuggire tuffandosi in un fiume gelido di frontiera in Romania, inseguita dai poliziotti. Adesso appunto lo status di rifugiato, non ha più nulla, mi ha detto che ha solo la voce e noi daremo a lei la possibilità di potersi esibire sul palco dell'Overs. 37esima edizione del Festival Lovers a Torino dal 26 aprile al 1 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Vladimir Luxuria. A presto! Grazie a voi, ciao! Con Chiara Manni dell'associazione ACMA per presentare la nona edizione del DocuD. A Pescara, Auditorium Cerulli, dal 21 aprile al 26 maggio 2022. Ben trovata! Buongiorno a te Federico e a tutti quelli che ascoltano. Raccontiamo la realtà di ACMA e poi passiamo a parlare di DocuD. Noi siamo sul territorio da 20 anni, ci occupiamo di cinema e in particolare negli ultimi 10 anni di cinema documentario, cinema del reale. È un'associazione no profit, siamo tutti volontari, e abbiamo soltanto aiuti a volte da sponsor, qualche ente pubblico, ma abbiamo un lavoro continuo di volontariato. Abbiamo ripreso DocuD che l'altro anno, come un po' tutti, abbiamo dovuto bloccare per ovvi motivi. Quindi riprendiamo con particolare gioia perché effettivamente dopo tutto il periodo che c'è stato, riprendere il cinema, il teatro è una cosa molto molto piacevole e quindi abbiamo fatto questo concorso con un programma che si occupa di varie tematiche nei film che proietteremo. Il primo si occuperà, ahimè, della guerra, ma non nel senso che è un documentario basato su quello che sta accadendo attualmente. Era stato selezionato perché è la storia di alcuni fotoreporter di guerra e il loro racconto su questi teatri di guerra, a partire addirittura dall'ex Jugoslavia. Molti hanno fatto la guerra in Bosnia. Poi c'è la tematica dell'integrazione, che è quella anche di attualità, però vista da una prospettiva particolare. Sono delle donne extracomunitarie che vogliono raggiungere un livello di conoscenza della lingua italiana ottimale proprio per favorire la loro integrazione. E questo documentario è di Perla Sardella, che è una regista giovanissima. Il precedente, ho dimenticato di dire, è che avremo Francesco Del Grosso, uno dei due autori, insieme a Matteo Balsamo, dopo la proiezione, quindi avremo l'incontro con lui e col pubblico. Poi il primo giovedì di maggio ci sarà una tematica che riguarda quello che è successo l'altro anno con lockdown. Questo documentario di Artemide Assieri e Angelo Cretella vede la pandemia e il lockdown dal punto di vista del circo. Sono questi operatori del circo che sono bloccati nella loro carovana bianca, proprio la carovana del circo, e devono stare lì alla periferia di una città senza sapere cosa poi gli succederà perché non si possono muovere, non possono viaggiare. Poi il 12 maggio c'è la tematica della violenza contro le donne in questo documentario Il cammino più lungo di Cecilia Fasciani, anche questo è un tema di attualità. Poi il 19 maggio Il disagio mentale, e questo è un documentario che fa parte di un progetto di film per il decennale del terremoto dell'Aquila. Non si occupano del terremoto, ma della vita all'Aquila e di quello che succede. Questa quindi è una storia di due persone che si incontrano con problemi mentali. Si chiama Barattoli di Latte regista, il regista Stefano Iani, che è un documentarista abruzzese. Poi alla fine abbiamo messo la musica, ecco, che forse ci aiuta sempre, e la storia di questa Dago Red, che è una band abruzzese che opera da tanti anni, lavora, fa concerti da più di 10 anni, e il documentarista, il regista che ha seguito questa band è Silvio Laccetti. Questo è il programma. Diamo anche tutti i riferimenti internet. Per chi volesse poi vedere, approfondire, www.webacma.it, e scriverci e contattarci info@webacma.it. Ovviamente abbiamo una pagina Facebook, basta vedere Associazione ACMA e trovate la pagina Facebook, idem per Twitter e gli altri social, però tutti i riferimenti degli altri social sono su www.webacma.it. Nona edizione del concorso di cinema documentario DocuD a Pescara all'Auditorium Cerulli dal 21 aprile al 26 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Chiara Manni dell'Associazione ACMA. A presto! Grazie, grazie a te Federico, e un saluto a tutti. Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB per le novità del mese. Ciao Paco, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Per questo mese abbiamo diverse novità. Innanzitutto l'uscita in sala di A Declaration of Love, un film veramente potentissimo prodotto da Nacne Film, che abbiamo il piacere di distribuire in sala per adesso e poi in streaming tra qualche mese. Finché era anche nella cinquina dei Nastri d'Argento dei giorni scorsi, quindi insomma era entrato nella cinquina finalista, e che ci porta dritto dritto a toccare il tema carcerario negli Stati Uniti, in particolar modo legato alla pena di morte. Un'unica lunga e molto profonda e toccante intervista al protagonista del film, che ha avuto purtroppo la sfortuna di vivere una situazione di mala giustizia negli Stati Uniti, si è fatto praticamente 22 anni di carcere, molti dei quali appunto nel braccio della morte, per poi appunto essere rilasciato, non per grazia ma per innocenza. È un film veramente molto potente che arriverà presto anche a Roma e che vi consigliamo di vedere. Il regista Marco Speroni è un regista di fama nazionale, molto conosciuto soprattutto nell'ambito del documentarismo, e questo suo nuovo film ci mostra ancora una volta la capacità e il tatto che ha questo autore, un film che ci ha messo 6 anni a essere realizzato, proprio perché va molto in profondità rispetto a quello che è anche la vicenda umana di questo personaggio, nel senso che il tema del carcere, della pena di morte, è trasversale a tutto il racconto, ma in realtà il racconto parla soprattutto dell'ascito nella sua vita, di tutta questa vicenda. E appunto è stato anche nella cinquina dei Nastri d'Argento, ed è un film che vi consigliamo caldamente di intercettare. Sempre in sala continua la tournée del nostro Sarura, il film che abbiamo realizzato come Sema Cattafettoli in Palestina per la regia di Nicola Zambelli. Potete trovare tutti gli aggiornamenti sulle date del film, della tournée, e anche aiutarci soprattutto a organizzarne sia sul sito del film sarurafilm.com sia sui social network. Abbiamo inoltre acquisito da poco anche Sarajevo Rewind, che è un bellissimo road movie documentario firmato da Eric Gobetti, già autore di OpenDDB, e che, come potete intuire dal titolo, ci riporta non solo in un territorio come quello della Bosnia, quello di Sarajevo, che negli ultimi anni sembra essere stato un po' dimenticato da più parti. Si chiama, in realtà il titolo completo è 1914-2014, e racconta attraverso questo road movie questi 100 anni di storia della città, chiaramente passando per anche quello che è successo nel 1914 con l'attentato e quello che poi è successo nei decenni successivi fino alla guerra degli anni 90. Abbiamo inoltre acquisito da poco anche un bellissimo reportage che si chiama Via Scipione 82, dedicato a Silvano Agosti e soprattutto alla vicenda del suo cinema di Roma, che purtroppo da diversi mesi è chiuso, attraversato dalla crisi del cinema che ahimè conosciamo molto bene. È un lavoro molto toccante, chiaramente, che si intreccia anche con la biografia dell'autore, di Silvano, e dove Silvano è il principale, chiaramente, protagonista della storia. E sempre con Silvano Agosti abbiamo adesso formalizzato un accordo che, oltre ai suoi film già presenti in catalogo da ormai anni, inizieremo a proporre anche la sua produzione editoriale. Silvano ha scritto infatti moltissimi libri in questi anni, e una volta a settimana pubblicheremo e racconteremo al pubblico una delle sue opere editoriali. E tutti i film e tutti i libri sono ovviamente su openidb.it, nella sezione dedicata a Silvano, e vi consigliamo di andare a farci una navigata perché ci sono davvero molte cose interessanti. Ultimo ma non importante, volevo segnalarvi che continuano le collaborazioni anche con i festival di cinema. Da poche settimane dopo l'inizio della prima ondata, 2 anni fa, OpenDDB ha iniziato, anche per scelta politica, quindi con la giusta attenzione, a fornire la possibilità ai festival che all'epoca erano bloccati per il Covid, ai festival di cinema, di avere delle sale digitali online per le sezioni streaming. Adesso che finalmente sembra essere il peggio alle spalle, quindi le sale sono riaperte, questo strumento può essere comunque uno strumento utilizzabile anche per mostrare al pubblico anche online una parte, anche se fosse solo una selezione, di quello che è la programmazione del festival. Sono collaborazioni che noi continuiamo a costruire nel corso di questi 2 anni, e la prossima settimana avremo 2 festival importanti cui tengo l'onore di segnalarvelo. Uno è il Festival dei Diritti Umani di Milano e l'altro è l'Integrazione Film Festival di Bergamo, curato anche dalla Bottanta. Entrambi i festival, se andate sui siti dedicati dei 2 festival, vi portano anche nella sezione streaming, dove potete vedere gratuitamente una selezione del programma. E per noi è molto importante continuare anche questo tipo di collaborazioni, anche perché, come spesso accade, come tutti gli strumenti tecnologici, il punto non è lo strumento in sé, ma come viene usato. E per noi è fondamentale che le sale cinematografiche abbiano riaperto, perché ovviamente fa parte della nostra vita e del nostro lavoro, ma è altrettanto fondamentale che, se uno strumento esiste, può essere coniugato anche a una proposta ibrida tra la sala e la sala digitale. Paco, un abbraccio, ci sentiamo alla prossima. Grazie a voi, a presto, a presto. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.